Questo incontro ha come tema la nuova Italia digitale, ma cosa effettivamente manca all'Italia per essere un paese digitale in linea con altri cugini europei, diciamo più avanzati su questo fronte? L'Italia in realtà in tema di infrastrutture digitali è messa in linea, se non addirittura meglio di tanti altri paesi dell'Europa, diciamo dei grandi paesi dell'Europa, sia soprattutto in tema di infrastruttura digitale mobile, dove da sempre noi siamo leader europei, ma tra i leader mondiali, ma anche in tema di infrastruttura digitale fissa. Si parla tanto di fibra, poco si dice che in Italia c'è moltissima fibra. Quello che manca non sono le infrastrutture, quello che manca è una cultura digitale, quello che mancano sono anche tutta una serie di contenuti digitali che dovrebbero essere accresciuti. E appunto, secondo lei come sarebbe possibile colmare questo gap culturale, come dare questi contenuti digitali che non abbiamo? Beh, il lavoro per colmare il gap sui contenuti digitali è un lavoro che attiene l'intera società. Noi dobbiamo partire sicuramente dalla scuola. I cosiddetti nativi digitali oggi sono dei nativi digitali che trovano una casa più digitalizzata della scuola. Abbiamo tutto il tema della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione è ancora molto poco digitale e avremmo molto bisogno che fosse più digitale. Poi c'è un grande tema che è un tema direi anagrafico. Noi abbiamo una popolazione che sta invecchiando e quindi dobbiamo trovare un modo che permetta ai non digital native di accedere al mondo dei contenuti digitali. Questo si farà anche attraverso i nuovi device, quindi i tablet sono facili da usare, le TV connesse ad internet devono aumentare e devono essere facili da usare. Quindi dobbiamo lavorare sull'ecosistema.